Con Benedetta Argentieri, regista del film I Am the Revolution, che sarà in distribuzione a partire dal 25 febbraio 2019 con Movie Day. Benedetta, ben trovata. Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Ci racconti, la storia di questo film, di cosa si parla? Il film parla di tre donne, che portano avanti una rivoluzione di genere nonostante il contesto. Che cosa vuol dire? Che sono tre approcci molto diversi a un femminismo in dei contesti che sono estremamente complicati, cioè la guerra. Le tre donne vivono in Iraq, a Rojava e in Afghanistan e hanno degli approcci molto diversi, come appunto vi potete immaginare. A Rojava c'è la lotta armata e in Iraq Jenar Mohammed porta avanti una lotta contro il delitto d'onore, quindi attivismo. E mentre in Afghanistan, Salai Ghaffar, la prima portavoce donna di un partito laico, dell'unico partito laico in Afghanistan, e quindi ha un approccio molto più politico. Sì. L'idea era di raccontare appunto come comunque ci sono diverse maniere, diverse pratiche per la lotta e soprattutto che comunque ognuno lavora nel contesto in cui è, dipendente. Oh, vabbè, ciao, mi sono scusata, vabbè, scusami. Com'era nato il progetto? Il progetto è nato perché io faccio anche la giornalista e negli ultimi anni, dal 2014 in avanti, ho viaggiato molto in quelle zone e mi sono resa conto che comunque i mainstream, i media mainstream raccontavano le donne o da vittime, perciò totali, nel senso che non dovevano essere aiutate, che siano di violenza, raccontavano solo di violenza, eccetera, oppure soprattutto con Rojava e con la lotta di Rojava, avevano una, diciamo così, la combattente sexy, quando in realtà io mi sono resa conto viaggiando, parlando con le persone, che in realtà ci sono tante donne che hanno, diciamo così, un pensiero politico molto ben definito e che stanno cercando di uscire da questo tipo di mentalità, soprattutto in quei paesi lì che vuole la donna succube rispetto all'uomo. Quindi l'idea era proprio raccontare una realtà diversa rispetto a quello che veniva sempre raccontato appunto sui mainstream, eccetera, cioè con una grandissima superficialità. La scelta di queste tre donne in queste tre storie diverse? La scelta, guarda, in realtà la cosa è cominciata così, che io nel 2015 ho incontrato Jenar Mohammed, che è la donna irachena che era venuta negli Stati Uniti, io vivo a New York, per parlare al Consiglio di sicurezza e raccontare appunto cos'era lo stato della donna in Iraq. Poi Rojda Felat, che è la comandante di Rojava, è una donna che io avevo già conosciuto e sapevo che era una persona estremamente interessante, che poteva veramente illustrare quello che è la lotta dello YPG. E invece Salai Ghaffar, che è la donna afghana, è arrivata dopo tante ricerche per cercare di costruire anche nel film una sorta di discorso unitario. E quindi la scelta è capitata appunto di cercare delle donne che fossero anche diverse, ma che avessero anche dei punti in comune, che avessero comunque anche ideologicamente dei punti in comune, anche se portavano avanti la loro, diciamo così, le loro istanze in maniere diverse. Scusami. Incontrando queste tre persone e sentendo un po' il loro vissuto, il loro percorso, che impressione ti sei fatta? Guarda, io sono rimasta molto scioccata dalla situazione in Afghanistan. Cioè, noi dobbiamo sempre ricordarci che nel 2001 gli americani invadono l'Afghanistan con la bandiera delle donne, dicendo che loro avrebbero aiutato le donne a emanciparsi e via dicendo. Oggi, nel 2019, il 14% delle donne, solo il 14% delle donne sa leggere e scrivere. E qui, questo ti dà l'idea di quanto comunque non solo siano indietro, ma quanto sia stata falsa questa propaganda nei confronti delle donne afghane. L'impressione in generale è che comunque di lavoro da fare c'è tanto, ma che ci sono delle speranze e l'idea anche molto più in generale del film è che comunque queste donne sono un esempio di lotta, ma senza le loro comunità, senza un percorso condiviso con altre donne, non sarebbe possibile farlo. E quindi loro passano innanzitutto dall'istruzione e per formare queste comunità che poi portano avanti appunto una rivoluzione di genere. Ci spieghi un po' anche la scelta distributiva con Movie Day? In Italia è molto complicato fare il cinema, nel senso che è molto, perché comunque la distribuzione punta, diciamo così, ai grandi blockbuster, che siano film o Hollywood americani, oppure comunque con un budget che sicuramente non era il nostro. E Movie Day invece ti dà la possibilità a chi vuole di vedere questo film e organizzare la serata. È una scelta che avevamo già fatto con un altro film, Our War, nel 2017, che poi è uscito al cinema nel 2017, e che sicuramente poteva raggiungere anche comunità e persone molto diverse e in tutto il territorio italiano. Io personalmente sono molto contenta di questa scelta, piuttosto che fare, anche perché comunque fare un discorso distributivo nei grandi cinema diventa molto molto complicato. Poi il film in realtà è acquistato dalla RAI, e quindi prima o poi andrà anche in televisione, però intanto facciamo questo tipo di percorso distributivo per poi andare appunto in televisione. Un'altra curiosità, questo titolo? Noi siamo andate l'8 marzo del 2017 alla prima manifestazione a Baghdad per le donne dal 2003 ad oggi, ed era uno degli slogan: io sono la donna, io sono la rivoluzione, che appunto vedrete nel film. E da lì abbiamo ragionato tantissimo appunto su come chiamarlo questo film, perché all'inizio di lavorazione era Victims No More, cioè non più vittime, che era proprio uno dei punti focali su cui io mi ero fissata. Poi in realtà I Am The Revolution, secondo me, è un titolo che può essere, diciamo così, applicato a tutte e tre le donne, a tutte e tre le comunità, perché ognuna di queste donne che ha fatto avanti questa lotta è la rivoluzione, e ognuno di noi può essere la rivoluzione, perché non è che bisogna fare sempre grandi gesti epocali, passano anche nelle piccole cose, e quindi ognuna di noi, se porta avanti questa lotta anche nelle piccole cose, è la rivoluzione. Benedetta, in chiusura, ci lasci tutti i riferimenti internet per seguire il percorso di questo lavoro? Assolutamente, I Am The Revolution The Movie è su Facebook, noi pubblichiamo tantissimo su Facebook, e lì potrete trovare tutte le informazioni e sicuramente tutti i passaggi che farà il film. Allora, ricordiamo il film I Am The Revolution di Benedetta Argentieri, in distribuzione a partire dal 25 febbraio 2019 con Movie Day. Benedetta, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A voi, grazie.